Che cos'è la tecnica? La tecnica è la macchina per fare il caffè che c'è là in fondo al bar. Ma quella è una macchina singola che può funzionare da sola, non ha bisogno di essere connessa con altre macchine, ha solo bisogno di una spina per connettersi alla rete elettrica per poter funzionare. Il computer, lo smartphone, sono invece qualcosa di molto diverso, perché sono apparati tecnici, il computer, lo smartphone, che però funzionano solo ed esclusivamente se sono connessi in una rete con altri computer. Se agli inizi dell'uso degli uomini, che gli uomini hanno fatto della tecnica, se vi ricordate il mito di Prometeo che ruba il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini, e il fuoco allora era la tecnica per poter fare tutta una serie di cose, beh, da quella tecnica a oggi sono passati molti secoli e la tecnica stessa è molto cambiata. Perché un conto è se io uso un martello per piantare un chiodo in un muro per appendere un quadro, un conto è quando io invece uso uno smartphone o un personal computer. Perché il martello, scusate l'esempio molto banale, il martello è qualche cosa che io prendo in mano e decido io dove, come usarlo e dove piantare il chiodo. Lo smartphone invece ha tutto un sistema al proprio interno, diciamo di algoritmi, diciamo di applicazioni, diciamo di tecnica, che mi porta a fare determinate cose e non altre. E ciò che io posso fare attraverso uno smartphone e un PC è ciò che lo smartphone o il PC mi permettono di fare, non ciò che io voglio fare. La differenza è sostanziale. Nel primo caso la tecnica, cioè il martello, è un mezzo. Qui è qualche cosa, nel caso dello smartphone o del PC, invece, è qualche cosa di molto diverso, perché c'è un filosofo della tecnica che si chiamava Gunther Anders, che io amo molto, il quale sosteneva, già 30 anni fa, il quale sosteneva che gli apparati tecnici hanno la capacità di trasformare il loro modo di funzionare, come funziona uno smartphone che allora non c'era, come funziona un personal computer che allora non c'era, ma come funzionano i sistemi di macchine, in forme sociali. Ovvero, Anders diceva, le forme tecniche e i modi in cui la tecnica funziona, oggi diremmo appunto come funziona uno smartphone, come funziona un personal computer, diventa una forma sociale, cioè la forma in cui la società si costruisce. Noi oggi abbiamo trasformato profondamente il nostro modo di comunicare, di vivere, di relazionarci, grazie ad un mezzo tecnico. Per un certo periodo di tempo, io e quella che poi è diventata mia moglie, eravamo distanti e separati da un oceano, ci scrivevamo delle lettere su carta. E queste lettere potevano essere lunghe quanto volevamo. Se la carta era poca, si poteva scrivere più stretto, più fitto, più... ma potevamo dire tutto quello che volevamo. Il nostro modo di comunicare attraverso il mezzo tecnico non era limitato dal mezzo tecnico, non era prefissato dal mezzo tecnico. Io oggi ho un mezzo tecnico che mi dice che posso messaggiare solamente con 140 caratteri, che diventeranno magari 280. Il fatto che io possa comunicare solo con 140 caratteri ha modificato il mio modo di comunicare e di relazionarmi con gli altri. Lo ha semplificato, lo ha banalizzato, ha inventato gli emoticon e altre cose, sì, certo, però ha modificato profondamente il mio modo di comunicare, di messaggiare, di informarmi. Il mezzo tecnico e come il mezzo tecnico funziona, la forma con cui funziona, è diventato la forma con cui la società comunica, vive, si relaziona. Perché poi parlo di tecnocapitalismo? Perché i due mondi, il mondo della tecnica e il mondo del capitalismo moderno, hanno contratto dalla prima rivoluzione industriale un matrimonio che non è tanto un matrimonio di interesse quanto un matrimonio di vero amore. Nel senso che sia la tecnica che il capitalismo hanno nella loro essenza, nel loro modo di funzionare, alcuni elementi comuni. Il capitalismo vuole massimizzare e accrescere quanto più è possibile il profitto, e tutti i modi sono buoni per poter massimizzare il profitto. La tecnica ha come sua essenza quella di crescere continuamente. La tecnica non torna indietro, la tecnica aumenta il proprio potere come apparato tecnico. Questi due meccanismi, queste due forme, il profitto del capitalismo e l'accrescimento della tecnica, si trovano a funzionare perfettamente, in perfetta sinergia tra loro, perché io capitalismo ho bisogno della tecnica per massimizzare i profitti, io tecnica, apparato tecnico, ho bisogno del capitalismo per poter fare una serie di investimenti in nuove tecnologie. Il capitalista moderno, direbbe per esempio Max Weber, nasce grazie all'etica protestante, in particolare all'etica calvinista. Che cosa diceva l'etica calvinista? Diceva che la teoria della predestinazione, tu non puoi sapere se sei tra i salvati o i dannati da parte di Dio, però se hai successo nella vita può essere un buon segno che tu sarai tra i salvati e non tra i dannati. E quindi mi do da fare, faccio, mi metto al lavoro, lavoro, produco, il lavoro diventa non più un mezzo per vivere, ma diventa una vocazione. Adam Smith fa l'esempio della fabbrica degli spilli, penso che più o meno la conosciate tutti, ma lui dice: è assurdo che una persona faccia uno spillo per volta dall'inizio alla fine, e trova il meccanismo per cui, suddividendo la lavorazione di una cosa così banale come la produzione di uno spillo in 17-18 mansioni diverse, si riescono a produrre migliaia di spilli per ogni lavoratore invece che uno solo per una giornata. Suddividere il lavoro, suddividere il tempo e suddividere il lavoro. Il sistema capitalista e il sistema tecnico, le macchine, funzionano sulla base di quello che io chiamo, pur o meglio ho ridefinito, come il doppio movimento. Ovvero, il sistema industriale e il sistema capitalistico, cioè il sistema tecnico e il sistema capitalistico, si basano su questo doppio movimento. Io da una parte devo suddividere il lavoro, individualizzarlo, semplificare le mansioni. Nell'esempio di Adam Smith, un operaio prende il filo di ferro, un altro lo raddrizza, un altro fa la punta, un altro fa la capocchia dello spillo e via di seguito. Ciascuno fa una piccolissima parte del lavoro complessivo necessario per produrre lo spillo e si specializza, dice Adam Smith, nel fare quella sua mansione. Specializzandosi diventa molto più veloce, molto più rapido, perché i suoi movimenti diventano sempre più automatici. Ripetendo sempre la stessa mansione, ripetendo sempre la stessa lavorazione, alla fine lo potrebbe fare quasi a occhi chiusi, perché non avrebbe bisogno di guardare ciò che sta facendo, perché il meccanismo è talmente automatico e talmente ripetitivo che funziona anche lui, operaio, come una macchina sostanzialmente. Io devo suddividere, perché in questo modo io recupero efficienza, produttività e quindi profitto, perché se invece di fare il mio operaio uno spillo al giorno ne fa 100, io posso vendere 100 spilli invece che uno per giorno, e quindi i miei profitti di imprenditore aumentano. Ma il meccanismo è tipico anche della tecnica. Pensate solo della tecnica e della scienza. La scienza moderna, che nasce anche con l'illuminismo, o che si sviluppa ulteriormente con l'illuminismo, tende a specializzarsi sempre di più, ovvero a frammentarsi in specializzazioni che perdono il senso dell'insieme e che si specializzano appunto sempre di più su quella particolare ramo della scienza. La stessa cosa per quanto riguarda la tecnica. La catena di montaggio, che nasce nel 1913 in casa Ford, è la meccanizzazione della fabbrica degli spilli di Adam Smith. Applico un sistema tecnico, applico delle macchine per poter frammentare ulteriormente la mia attività di produzione. Anche la tecnica funziona nel fare, nel suddividere le macchine in operazioni ripetitive e in operazioni che si replicano. In questo senso, tecnica e capitalismo hanno anche questo elemento in comune, il problema della suddivisione. L'essenza è nel suddividere, ma non mi basta suddividere, perché poi devo trovare un buon sistema per rimettere insieme le parti che ho suddiviso e arrivare al prodotto finito. Io posso suddividere in 17-18 operazioni la fabbricazione di uno spillo, ma se poi lo spillo non viene fuori, il mio sistema non funziona. Quindi devo trovare un sistema di organizzazione che mi permetta, dopo avere suddiviso il lavoro e i lavoratori in mansioni semplici, di arrivare a ricomporre tutto il lavoro suddiviso in qualche cosa che si dice deve essere superiore alla semplice somma aritmetica delle parti. E allora io provo a, tra provocazione e non provocazione, a dire che la rete di oggi, ripeto, per quanto riguarda i campi che mi interessano, cioè il lavoro, il consumo, l'innovazione, la rete di oggi non è diversa come sua struttura organizzativa rispetto alla vecchia catena di montaggio di Henry Ford. Ai tempi di Henry Ford io avevo bisogno, siccome la catena di montaggio era qualcosa di grosso e di pesante, di metterlo in uno spazio fisico, cioè la grande fabbrica, e lì far lavorare e portare dentro migliaia di lavoratori, di persone a lavorare, perché quello era il mezzo di connessione che potevo usare allora. Avevo bisogno di mettere lì migliaia di persone per stringere i bulloni per produrre le automobili. Beh, oggi io posso, oggi, ma in realtà il processo nasce da qualche decina di anni, io posso esternalizzare rispetto alla mia vecchia fabbrica, al mio vecchio ufficio, tutta una serie di attività, di mansioni, di competenze che non necessariamente devono essere dipendenti formalmente da me, impresa, possono essere anche lavoratori autonomi che però mi vendono le loro prestazioni per il tempo in cui mi servono. Io non ho bisogno di mettere, di avere fabbriche grosse, pesanti, con migliaia di persone, perché la mia fabbrica, il mio mezzo di connessione che mi permette di legare tra loro persone, competenze, conoscenze diverse, questo mezzo di connessione oggi è la rete ed è un mezzo di connessione non più fisico come la vecchia catena di montaggio che poteva stare solo dentro una grande fabbrica, ma è qualcosa di assolutamente virtuale. Dire che la rete è diventata una fabbrica può sembrare un po' provocatorio, ma se ci pensate, ciascuno di noi, ogni volta che accende il computer, compie un qualche tipo di lavoro, perché lavora tramite il computer, è connesso con qualcun altro per fare delle cose insieme. Quando consuma, acquista su Amazon piuttosto che. Quando semplicemente navigando lascia delle tracce, delle informazioni che lo riguardano sui siti che ha visitato, su dove è andato ad acquistare, sulle sue carte di credito che ha utilizzato, eccetera, eccetera, che vengono prese da qualcuno e messe in quella cosa che si chiama il big data. Anche quando noi navighiamo e anche quando noi apparentemente siamo liberi di muoverci nella rete, in realtà noi lasciamo delle tracce. Queste tracce sono usate da qualcuno. È il nostro lavoro che facciamo per qualcun altro che prende i nostri dati e li vende, penso a Facebook, e li vende a qualcun altro per farci marketing, per farci profilazione, per farci marketing politico, marketing commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ciò che noi facciamo attraverso la rete lo posso definire come una forma di lavoro, a volte retribuito, spesso non retribuito. Se il 45% degli americani si informa su ciò che accade nel mondo attraverso Facebook, ma Facebook fa arrivare a ciascuno le informazioni sulla base di un algoritmo che sa già quella persona cosa preferisce e quali interessi ha, beh, allora posso dire che c'è qualche cosa che comincia a non funzionare nel meccanismo anche della cittadinanza, della democrazia, perché se qualcuno mi filtra le notizie e mi fa arrivare solo le notizie che mi possono interessare, vuol dire che c'è un meccanismo, c'è qualche cosa, c'è un algoritmo che decide per me e non sono più io a decidere. L'imprenditore per Schumpeter, economista del secolo scorso, era colui che a un certo punto innova, cambia, introduce qualcosa di assolutamente nuovo e poi diventa qualcosa che la società fa diventare suo. L'imprenditore distrugge ciò che era precedente per creare qualcosa di nuovo. L'innovazione tecnologica non si ferma, anche l'innovazione vuole distruggere, deve essere distrutta per essere sostituita da qualcosa di nuovo. Distruzione creatrice, oggi si parla di disruption, sostituzione di una nuova tecnologia che sostituisce e rompe una situazione di mercato, devo la definizione agli amici di Ippolita. Distrugge qualcosa che c'era prima e crea delle nuove regole di funzionamento di qualcosa di assolutamente nuovo. Qualcuno di voi si ricorderà che negli anni 70 ci sono state due grandi crisi petrolifere, 1973 e 1979. Si ricorderà le domeniche a piedi, le targhe alterne, il Natale senza luminarie, perché non c'era più benzina, non c'era più petrolio per far funzionare l'economia. Beh, sono gli anni anche in cui il modello fordista, come si chiama, cioè la grande fabbrica, migliaia di persone tutte in fabbrica che vanno a lavorare in fabbrica o in ufficio, comincia a diventare troppo rigido, incapace di sostenere questa cosa che si chiama stagflazione, due crisi petrolifere. Si deve innescare un qualche cosa di assolutamente nuovo per far uscire il capitalismo dalla crisi in cui è entrato in quegli anni 70. Alla fine di quegli anni 70 finisce non solo il fordismo, la grande fabbrica, i partiti di massa, i consumi di massa, finiscono anche le politiche keynesiane. Redistribuire la ricchezza, creare il welfare state, io Stato creo un sistema di servizi gestiti dallo Stato che riguardano le pensioni, la sanità, la scuola, l'istruzione. Beh, in quegli anni 70 si comincia a dire che quel modello di welfare state è pesante, inefficiente, toglie la libertà agli uomini. Nel 1979 Margaret Thatcher, qualcuno se lo ricorderà, immagino, neoliberista, dice: la società non esiste più, esistono solo gli individui. Si comincia a giocare molto sulla individualità. Le tecnologie giocano molto su questa idea libertaria di tu individuo puoi fare ciò che vuoi. La stessa cosa fa il neoliberalismo, in particolare il neoliberismo a Margaret Thatcher. La società non esiste, esistono gli individui. Buttati tu nella vita, fai quello che vuoi, cerca di realizzare quello che vuoi, non dipendere dallo Stato. Questi due momenti, tecnico e politico, la tecnologia di rete da una parte e il neoliberalismo dall'altro, giocano in perfetta sinergia nello smontare lo Stato sociale, i legami sociali e produrre una quantità di individui convinti di poter essere creativi, di poter essere liberi, di poter fare ciò che vogliono. 2 miliardi di persone sono ogni mese su Facebook, ma Facebook, qualcuno finalmente comincia a dire che in realtà non è un social network, è una grande agenzia di spionaggio e una grande agenzia di pubblicità. A volte faccio questa provocazione: Amazon è quello che è. E tutti usiamo Amazon, ma forse al di là di una certa tecnologia che viene utilizzata da Amazon e che permette ad Amazon di essere quello che è, il suo meccanismo di funzionamento non è molto diverso, qualcuno forse se lo ricorderà, dal postal market o dalle vecchie vendite per corrispondenza. Allora, così come la rete non è forse diversa dalla catena di montaggio, Amazon non è forse diversa dal postal market. Cambia tutto, certo, ma cambia perché c'è una tecnologia diversa che mi permette però di fare le cose che si facevano prima. Se ieri avevamo bisogno del fordismo concentrato, tutti dentro nella fabbrica, adesso posso avere quello che io chiamo il fordismo individualizzato. Ho persone che lavorano per me, ma al di fuori della mia struttura e della mia organizzazione. Che bello, sono finalmente imprenditore di me stesso. Sono veramente imprenditore di me stesso, come mi dicono le retoriche dominanti di oggi, oppure sono comunque un lavoratore dipendente da qualcuno, da un'impresa, da una piattaforma? Spero che questa conoscenza ti sia utile e mi auguro che tu la condivida.